Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, scuole chiuse, la ministra Bonetti apre ai voucher babysitter e ai congedi dei genitori. Intanto in Germania i casi salgono a 350, la California dichiara lo stato di emergenza. La crisi dei migranti al confine greco-turco, Ankara annuncia truppe speciali contro i respingimenti di profughi verso la Turchia. Piogge, vento e neve in arrivo su tutta Italia, una perturbazione atlantica dal nord in estensione verso il centro-sud, domenica in miglioramento. Calcio, la FIGC conferma partite a porte chiuse fino al 3 aprile. E buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Anche oggi un'ampia pagina sul coronavirus. A livello globale salgono a 350 i casi in Germania, la California dichiara lo stato di emergenza, mentre i casi nel mondo sono 95.000 e sempre in calo fortunatamente i casi attivi, che sono circa 38.000. In Italia si sta ancora valutando, lo ha detto stamattina l'assessore al welfare della Lombardia, se estendere la zona rossa nel Lodigiano, mentre il resto del paese sta prendendo le misure con il nuovo decreto, con tutte le restrizioni sul territorio, a cominciare dalla chiusura delle scuole. E la ministra Bonetti parla di una possibilità di voucher babysitter per i genitori o un congedo per i genitori dei figli che appunto non possono andare a scuola. Ma cominciamo con le ultime notizie. In Cina il contagio continua a scendere, il presidente Xi Jinping ordina la graduale riapertura delle fabbriche, ma il coronavirus fa paura al mondo. In Cina i malati sono scesi a 25.000 e i guariti saliti a 52.000, mentre il 95% dei nuovi contagi si registra ora nel resto del mondo. In Corea del Sud i positivi sono oltre 6.000 e circa 3.000 in Iran, che ha deciso oggi la chiusura delle scuole per un mese. 3.000 positivi anche in Italia, ma i contagi crescono anche nel resto d'Europa, 285 in Francia, 349 in Germania, primo morto in Svizzera. Nel Regno Unito contagi saliti a 87 con impennata nelle ultime 24 ore e il primo consulente medico del governo in audizione alla Camera ha detto poco fa che la fase di contenimento è ormai fallita. Anche in Italia i contagi continuano a salire al ritmo di oltre 400 al giorno, con 55 morti negli ultimi due giorni. I contagiati attuali sono 2.706, ricoverati in terapia intensiva 295. Oggi i primi due tamponi positivi in Valle d'Aosta. Negli Stati Uniti i morti salgono a 11 con contagi ufficiali a 160 e la California dichiara lo stato di emergenza. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi ricordo che più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno, insieme al professor ordinario di igiene a Pisa Luigi Lopalco, cercheremo di valutare tutte le misure restrittive che sono state adottate ieri dal decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E intanto c'è attesa anche per le misure economiche. Proprio Conte ieri, nel videomessaggio che ha mandato al paese attorno alle 8 ieri sera, ha anche detto che chiederà a Bruxelles di tenere in conto la maggiore flessibilità per quanto riguarda le spese che il nostro paese sta affrontando per questa emergenza. L'Italia ce la farà a superare l'emergenza coronavirus e il governo metterà in campo tutte le risorse necessarie per rilanciare l'economia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rassicura il paese, spiega che l'esecutivo sta facendo tutto il possibile per sconfiggere l'epidemia e chiederà all'Europa maggiore flessibilità di bilancio. È una situazione straordinaria che necessita di misure straordinarie. Chiederemo all'Unione Europea tutta la flessibilità di bilancio di cui ci sarà bisogno per sostenere le nostre famiglie, le nostre imprese. L'Europa dovrà venirci dietro e sostenere questo nostro sforzo. Il decreto dà almeno 3,6 miliardi con le misure a sostegno dell'economia e dei settori più colpiti dalla crisi coronavirus arriverà la prossima settimana. Oggi il Consiglio dei Ministri darà infatti il via libera alla relazione sullo sforamento temporaneo degli obiettivi di finanza pubblica per reperire le risorse necessarie, relazione da inviare poi all'esame del Parlamento che si riunirà per il voto la prossima settimana. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra l'altro, a proposito della chiusura delle scuole per venire incontro ai genitori, la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti ha parlato oggi della possibilità di introdurre dei voucher babysitter. Regioni, politici, associazioni chiedono a gran voce misure per sostenere le famiglie alle prese con la chiusura delle scuole almeno fino al 15 marzo, 3 settimane per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Sto pensando a voucher per i costi delle babysitter e congedi straordinari per i genitori, sottolinea la ministra per la famiglia Elena Bonetti. Il decreto approvato ieri però non ne parla. Aspettiamo che il governo firmi le misure e le renda attuabili, ci spiega Melania Rizzoli, assessore all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Lombardia. In questo momento il congedo straordinario per i genitori ci sembra la situazione migliore, anche se non sono state ancora definite né scritte e firmate queste nuove disposizioni. Il congedo, valido per un genitore, dovrà essere retribuito al 100%, chiedono i governatori, che aspettano per oggi risposte concrete. Ancora non si sa se gli interventi riguarderanno tutti i lavoratori, dipendenti, autonomi e se ci sarà l'obbligo per le aziende. La Toscana, intanto, ha già deciso di rimborsare le babysitter al personale sanitario. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo questa pagina dedicata al coronavirus. Ci torneremo nella seconda parte di Effetto Giorno, come detto, con il professore di igiene a Pisa Lopalco. Intanto sentiamo poco fa in conferenza stampa il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro a proposito delle misure adottate ieri sera dopo una lunga attesa e un po' di incertezza in tutto il paese da parte del governo. Il decreto è stato firmato dal presidente del Consiglio Conte con le famose misure, anche quelle che riguardano la chiusura delle scuole. Ha detto Brusaferro, si tratta di misure necessarie e coerenti. Sentiamo. Questa è una sfida di tutto il nostro paese, ma direi che è una sfida un po' globale. Se, come contiamo, affrontiamo con successo nel nostro paese questa sfida, la nostra esperienza, le conoscenze che stiamo acquisendo e acquisiremo aiuteranno anche altri paesi che magari in alcune situazioni hanno un servizio sanitario nazionale meno strutturato, meno forte del nostro. E adesso cominciamo con le altre notizie, andiamo all'estero perché c'è grande attesa per il vertice tra Russia e Turchia che si terrà oggi a Mosca a proposito della guerra in Siria, nel nord-ovest della Siria di Idlib. Intanto sono migliaia i profughi siriani, ma anche dall'Afghanistan, che si trovano al confine greco-turco, una crisi ormai ampiamente esplosa anche a livello europeo. I migranti che vengono lanciati contro le frontiere sono usati come armi, così l'alto rappresentante dell'Unione Europea Borrell nella sua introduzione alla riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione che si tiene a Zagabria. Borrell fa riferimento ai profughi siriani che vengono usati in queste ore come arma di ricatto nei confronti dell'Europa da Erdogan. 138.000 premono al confine secondo la Turchia, 10 volte di meno secondo la Grecia, perché i numeri, oltre ai migranti, vengono usati come armi di propaganda. Di certo c'è che al confine la tensione è altissima. La polizia greca usa gas lacrimogeni e granate stordenti. A Castanies sono segnalate inquietanti ronde di alba dorata contro i profughi. In un filmato, una barca di migranti che cerca di attraversare il fiume Evros lungo la frontiera è costretta a tornare indietro perché i suprematisti gli sparano contro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mentre nella provincia siriana di Idlib continuano i raid aerei russi, la NATO valuta in che modo aiutare l'alleato turco. Serve una decisione comune per una sfida comune in Siria, ha detto il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Stoltenberg alla riunione dei ministri della difesa dei paesi europei a Zagabria. E incalza Washington, cerchiamo di spingere gli europei a contribuire in maniera militarmente significativa ad aiutare la Turchia, ha infatti detto l'inviato speciale per la Siria James Jeffrey. Ma non in Croazia, bensì a Mosca, si trova ora il presidente turco Erdogan per colloqui con l'omologo russo Putin. Obiettivo: cercare una soluzione all'escalation militare proprio di Idlib, dove turchi e russi, messa da parte l'amicizia di un tempo, si trovano su fronti opposti e a un passo dallo scontro totale. Erdogan è accompagnato dal ministro degli esteri, della difesa e dal responsabile dell'intelligence, anche se per ora si prevede solo un incontro tra i presidenti, ha detto il Cremlino. Si allargherà se necessario. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E ora con la cronaca veniamo in Italia. I carabinieri del Comando Provinciale di Genova stanno eseguendo 8 custodie cautelari in carcere, ma anche 18 misure restrittive per tutti. L'accusa è di associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina aggravata dalla transnazionalità. E invece si è aperto ad Ancona il processo per la strage alla discoteca di Corinaldo. La notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018 nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo morirono 5 minorenni e una mamma di 39 anni. Sotto accusa 6 giovani del modenese, presunti componenti della banda dello spray, accusata di aver spruzzato spray al peperoncino per commettere furti all'interno del locale, generando così la calca che causò la morte di 6 persone. Il comune di Corinaldo ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale davanti al GUP del Tribunale Ordinario di Ancona. Punta ad ottenere il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, compresi quelli derivanti dalla lesione dell'immagine. Gli avvocati dei ragazzi arrestati con l'accusa di omicidio preterintenzionale, associazione per delinquere, lesioni personali e una quarantina di rapine e furti hanno chiesto per loro il rito abbreviato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Piogge temporali, vento e neve sul nord Italia. In queste ore sono gli effetti di una perturbazione atlantica che si sta spostando da ovest verso est, coinvolgendo anche la Toscana. Nelle prossime ore sarà anche al centro-sud, ma il tempo che permarrà anche nel weekend, in miglioramento a partire dalla serata tra sabato e domenica. Alle scuderie del Quirinale apre la mostra dedicata a Raffaello, una mostra che si era annunciata come mostra dei record, adesso però l'accesso sarà contingentato, quindi vedremo quale sarà l'esito in termini di pubblico. Adriana Fracchia ha intervistato una delle curatrici, Marzia Faietti, sentiamo che cosa ci racconta. Dovevamo celebrare il 5° centenario della morte, naturalmente, anche se noi l'abbiamo inteso un po' come una rinascita. E quindi siamo partiti proprio dal 1520 con un'apertura molto spettacolare, questa riproduzione tridimensionale della tomba al Pantheon, e poi abbiamo fatto a ritroso tutto il suo percorso, mostrando così l'aspetto dell'artista universale ancora più lucidamente, ancora più tangibilmente. Lei sente Raffaello vicino alla contemporaneità? Io sento soprattutto Raffaello vicino alla contemporaneità e alla globalità. Impegno professionale, progettazione e futuro, e questo del futuro, memoria del passato per progettare e costruire il futuro, consapevolezza quindi del passato ma anche tensione verso il futuro, e mi auguro che questo sia un messaggio diretto soprattutto alle più giovani generazioni. 13 e 12 minuti, effetto giorno, si ferma, facciamo un break, torniamo tra poco dopo le informazioni sul traffico con tutte le altre notizie, come cambia la nostra vita in tempi di coronavirus, dal cinema allo sport, passando per le scuole, quanto servono queste misure, ne parleremo con il professor Lopalco, professore ordinario di igiene all'Università di Pisa. 349-238-6666, se volete scriverci ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Giorno, a tra poco. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, scuole chiuse, la ministra Bonetti apre ai voucher babysitter. Intanto in Germania i casi salgono a 350 e la California dichiara lo stato di emergenza. Dalle scuole chiuse agli eventi sportivi a porte chiuse, come cambia la nostra vita, ne parliamo tra poco con il professor Lopalco. La crisi dei migranti al confine greco-turco, Ankara annuncia truppe speciali contro i respingimenti di profughi verso la Turchia. Piogge, vento e neve, in arrivo sull'Italia una perturbazione atlantica dal nord in estensione verso il centro e il sud, domenica in miglioramento. Calcio, la FIGC conferma partite a porte chiuse fino al 3 aprile. Le 13:15, questi titoli di oggi, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Allora, riprendiamo in mano, abbiamo sentito poco fa le dichiarazioni del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, sulle misure adottate dal Governo. C'è stata molta incertezza ieri, da parte del Governo nel prendere le decisioni, ma anche nel comunicarle. All'ora di pranzo si era diffusa la notizia delle scuole chiuse, la conferma è arrivata soltanto alle 18 con la conferenza stampa di Conte e della ministra Azzolina, che ha annunciato anche altre misure, quelle sugli eventi sportivi, la distanza di un metro eccetera eccetera, che tra l'altro erano già sui giornali di ieri. Solo alle 20 di ieri sera è arrivato un videomessaggio di Conte che confermava tutto e poi in tarda serata la firma del decreto. Evidentemente c'erano timori di impattare negativamente sulla vita delle persone in un paese già in stagnazione dal punto di vista economico. Era filtrato anche un parere contrario del comitato tecnico sulla chiusura delle scuole, anche se insomma, diciamo chiaramente che non ci sono conferme intanto di questo parere negativo, anzi Brusaferro oggi ha confermato il fatto che è giusto chiudere le scuole, ma poi le scuole sono chiuse per esempio in Giappone già da un po', un paese che ha molti meno casi dell'Italia, questo è un dato di fatto. Poi una considerazione di buon senso: tra l'emergenza sanitaria, il rischio di affollare gli ospedali e il rischio di paralizzare un paese già in difficoltà economiche, quindi bloccare il pagamento degli stipendi di molte persone, quello che c'è nel mezzo, scuole, università, musei, teatri, mi sembra che siano delle misure ampiamente sostenibili, quindi non credo ci si possano fare molte polemiche su questo. Iniziamo però a parlare di tutto questo vedendo intanto che cosa accade. Tra poco saremo in diretta col professor Lopalco di igiene, professore di igiene all'Università di Pisa, e cominciamo però a vedere cosa accade per esempio per quanto riguarda i teatri e gli spettacoli in corso nel nostro paese in questi giorni. Sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano l'affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Così è scritto nell'ultimo decreto del governo sul coronavirus del 4 marzo. Le ultime norme nella sostanza bloccano i grandi spettacoli di massa, i tour, regolarizzano cinema e teatri, chiudono i più importanti enti lirici. Gli ultimi dati diffusi sono impressionanti: da 7.400 del 25 febbraio si passa a oltre 12.000 spettacoli cancellati o rinviati di oggi. Solo in Lombardia i danni accertati ammontano a 18.3 milioni di euro di mancati introiti, 7 milioni per il cinema, 11.3 per i teatri, Scala compresa. In questi calcoli non sono contemplati le decine di migliaia di piccole e medie associazioni, teatri, cinema indipendenti, per i quali la buona riuscita di una stagione in termini di pubblico è spesso fondamentale per restare vivi. La responsabilità non la puoi scrivere in un decreto. Quello che il settore si attende però è la riqualificazione, la definizione di un ruolo fondamentale nella società, soprattutto in un periodo di emergenza come questo. Così dunque Daniele Biacchessi, è con noi il professor Luigi Lopalco, ordinario di igiene all'Università di Pisa, buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuto professor Lopalco. Allora, prima di iniziare l'intervista voglio fare una citazione di un amico e collega, Gianluca Dotti, un giornalista scientifico molto documentato, che poco fa sui social ha scritto: ambire alla normalità in una situazione straordinaria non è da eroi, ma è da sciocchi. Io condivido pienamente, ma al di là del mio punto di vista, professor Lopalco, che giudizio lei dà di queste misure, il metro di distanza, lo stop ai congressi, ai raduni pubblici e soprattutto la chiusura delle scuole e delle università, tutto questo insieme di misure, lei come le giudica dal punto di vista proprio della possibilità di contenere la diffusione di questa epidemia? Allora, noi dobbiamo fare riflettere su quelli che sono gli strumenti a nostra disposizione per bloccare, ma a questo punto direi soprattutto rallentare, la corsa di questo virus. Gli strumenti a disposizione sono semplicissimi: dobbiamo identificare i casi di malattia al più presto possibile. Ecco perché diciamo a tutti, mi raccomando, se avete anche due linee di febbre non fate gli eroi, state a casa, chiudetevi a casa e avvisate le autorità sanitarie. L'altro, appunto, una volta che abbiamo identificato i casi, l'altro mezzo è quello di isolarli, tenerli il più possibile fuori da qualunque tipo di contatto, e l'altra misura, l'ultima, è la cosiddetto distanziamento sociale. Ora, l'interpretazione del distanziamento sociale deve essere ovviamente commisurata a quelle che sono le possibilità di una società. Certo. Voglio dire, Sarebbe bello che potessimo stare tutti a 3 metri di distanza tranquillamente, oppure ognuno chiuso a casa sua. Sicuramente per quanto riguarda il contagio sarebbe la misura più efficace, però non sono misure sostenibili, no? Da un punto di vista sociale, economico, politico. Bisogna trovare il famoso punto di caduta della sostenibilità e di quelle che è eventualmente l'efficacia di una misura. Allora, fino a questo punto, io lo dico un po' da studioso, credo che questo punto di caduta si sia trovato, cioè nel senso che noi abbiamo visto quello che è successo a Wuhan. Allora, a Wuhan è stato bloccato un contagio, attenzione, a Wuhan hanno rallentato, hanno spento un focolaio, ma probabilmente in Cina nei prossimi mesi si riaccenderà la diffusione, non è che il coronavirus è scomparso dalla Cina. Quindi però loro, per poter raggiungere questo risultato, hanno messo in atto delle misure che non hanno precedenti nel mondo, cioè hanno chiuso in casa un paese, hanno chiuso in casa praticamente milioni e milioni di persone. Una misura di quel tipo, che sono le misure appunto per il contenimento, non sono applicabili in nessun'altra parte del mondo, per tantissimi motivi. Per cui quello che dobbiamo fare adesso è cercare di essere ragionevoli. Ovviamente essere ragionevoli significa che io non posso fare domani esattamente tutto quello che facevo ieri. Cioè, ecco, nel senso, noi non possiamo chiedere ai nostri cittadini di fare come hanno fatto a Wuhan, ma non possiamo neanche dire di non rinunciare ad una pericena, tanto per capirci. No, non solo, ma anche l'isteria che si è scatenata tra i genitori, anche per il fatto di averlo saputo la sera e magari non c'è stato neanche il tempo di organizzarsi, del fatto della chiusura delle scuole, oddio cosa faccio con i bambini, le chat delle mamme che sono esplose, con delle giuste preoccupazioni, però insomma vanno anche un po' ridimensionate, inquadrate, messe da parte, perché queste sono misure appunto più sostenibili che non bloccare un intero paese come ha fatto appunto, ricordava lei, la Cina, e misure che però si sono rivelate efficaci, perché lì il contagio è in diminuzione, lo dicono assolutamente i dati, l'epidemia è in una forma contenuta, e lo stesso hanno fatto, per esempio, lo ricordavo prima, anche il Giappone ha chiuso le scuole pur avendo molti meno casi di noi. Aggiungo una cosa, professore, e poi continuiamo la valutazione delle varie misure. È stato detto: l'immagine dell'Italia rischia di andare compromessa perché partite di calcio importanti a porte chiuse, tutto bloccato, rischiamo di fare la figura di quelli che sono il focolaio epidemiologico del mondo. Ma cosa avremmo dovuto fare? Dire: c'è il coronavirus, facciamo finta di nulla? Andiamo avanti tranquillamente. Credo che sarebbe stato molto peggio in termini di immagine, no? Assolutamente sì. Tenga presente che, così come ora il mondo plaude a quello che è stato l'intervento cinese, se voi sentite la conferenza stampa del rappresentante del team che è stato in missione da parte dell'OMS, è stata impressionante. Quindi il mondo ha ringraziato la Cina per quello che ha fatto. Io credo che l'Europa aspetti qualche settimana, ringrazierà l'Italia per quello che sta facendo. Ed è quello che ha detto poco fa Brusaferro del Istituto Superiore di Sanità, ha detto proprio questo, abbiamo mandato in onda l'audio poco fa. Il nostro caso, con il grande sistema sanitario nazionale che ha l'Italia, con il fatto che abbiamo avuto la sfortuna di avere dei focolai, ma che stiamo cercando di controllarli, se riusciremo a farlo potremmo, diciamo, diventare un esempio anche per gli altri paesi che forse sono qualche giorno più indietro di noi. Non glielo auguriamo, ma in ogni caso siamo sotto osservazione, che lo vogliamo o no, anche che crediamo, come qualcuno sentivo ancora oggi parlare di teoria del complotto per cui il coronavirus ce l'avrebbero mandato i francesi o i tedeschi perché ci vogliono male. Anche se fosse così, adesso dobbiamo comunque dobbiamo fare fronte. Dottor Lopacco, voglio farle sentire però anche questa intervista che riguarda il settore degli alberghi, perché anche questo è un settore che sta andando al tracollo, in crisi. Io le anticipo la domanda: oltre ai motivi per cui si possono annullare dei viaggi, perché non ci sono più delle fiere, degli eventi che non ci sono proprio più, se ci sono delle ragioni per non frequentare i luoghi pubblici tipo gli alberghi, perché come ricorda il presidente dei Federalberghi Milano, Monza, Brianza e Lodi, al microfono di Anna Marino, si tratta di Maurizio Naro, siamo di fronte a un calo veramente impressionante. Sentiamo. Come si può immaginare? immaginare in questo momento stiamo soffrendo tantissimo. L'occupazione è ormai stabilizzata tra il 5 e il 10%, abbiamo mediamente 5-6 camere occupate, tutte singole, perché comunque non ci sono turisti, quindi non sono doppia occupazione, e quindi spesso girano in albergo più dipendenti dei turisti presenti. Quanto si calcola come perdita giornaliera? Noi abbiamo fatto un calcolo che mediamente Milano durante la settimana lavora all'85%, tenendo conto che sono 35.000 le camere d'albergo e adesso lavoriamo sotto il 10%, mediamente possiamo considerare un 25.000 camere non vendute al giorno. Queste 25.000 camere per 130 euro, che è il costo medio di una camera su Milano, si arriva facilmente a 3 milioni di sole camere al giorno che si stanno perdendo come ricavi. Allora, professor Luigi Lopalco, ricordo, professor ordinario di igiene all'Università di Pisa, che cosa sta accadendo? C'è una psicosi che va oltre i dati oggettivi, e questo è anche comprensibile, oppure effettivamente occorre veramente fermarsi e rinunciare quasi, non dico a tutto, ma a molto, come per esempio anche una vacanza di 2 giorni in una zona che non è né rossa né arancione, ma magari è fuori da ogni focolaio, come in Toscana o in Sicilia? Allora, guardi, io in questo momento la sto chiamando da una stanza d'albergo, quindi tanto per dire, io sono in un albergo, non corro nessun rischio, sono a Roma, passeggio per le strade di Roma, mi godo la bellezza di questa città, mi posso godere tranquillamente i suoi monumenti. Ora, questa operazione che io sto facendo in questo momento è un'operazione assolutamente senza nessun tipo di rischio. È ovvio che in questo periodo, se dovesse esserci notizia della circolazione del virus, magari cercherei di evitare i luoghi affollati, cercherei di starmi buonino, non andrei sicuramente a farmi una serata in discoteca, tanto per dirne una, oppure non andrei in un ristorante estremamente affollato, però una passeggiata, godersi la natura, godersi le grandi città, è certo. Assolutamente, però capisce bene, il panico è qualche cosa che è difficile da gestire, ecco. Contro il panico servirebbe una buona, strategica comunicazione istituzionale. Ecco, ma servirebbe anche quello che lei ci ha appena detto, per esempio, un messaggio antipanico come il suo, poco fa, che ci parlava appunto del fatto che lei è tranquillamente in una stanza d'albergo a Roma e fa la vita che potrebbe fare, ora non voglio dire un turista, perché lei sarà lì forse anche per questioni di lavoro e non vorrei, non diciamo, facendo il turista, ecco, però, nei ritagli di tempo si può fare anche questo. Senta, come giudica invece dal punto di vista dei numeri la crescita del contagio? Anche lì oggi ho letto una ipotesi di Ricolfi, che è uno statistico, non un epidemiologico, ma uno statistico, e dice: con questi numeri, con questo R0 come è stato definito, è possibile che si arrivi a superare i 60.000 casi in pochi giorni. Lei come giudica la progressione di questi giorni in Italia di casi positivi da Covid-19? Allora, anche noi, diciamo, come studi epidemiologici abbiamo messo su dei modelli di sviluppo dell'epidemia. Effettivamente i numeri che stiamo registrando in questi giorni sono ancora dei numeri di crescita, cioè sono dei numeri che non mostrano nessun cenno di arresto. Ora, questo non ci deve spaventare, perché le misure ovviamente che si mettono in atto, diciamo, poi l'effetto di queste misure si vede dopo diversi giorni. Noi appunto abbiamo i nostri modelli, gli scienziati ce li hanno, gli statistici, gli epidemiologi sanno come cresce la curva in assenza di contenimento. Allora, i numeri che ha dato il collega statistico sono i numeri in assenza di contenimento, cioè se non facciamo nulla si arriva a quello, cioè questo è matematico, i modelli di programmazione delle epidemie sono matematici, non ci possiamo far nulla, quindi se non si fa nulla, ma noi stiamo facendo, attenzione, in Italia si sta facendo, si sta cercando di contenere l'epidemia, quindi io spero che già in questi giorni possiamo avere i primi segni di arresto di quel focolaio. Attenzione, una volta che abbiamo contenuto e rallentato quel focolaio, dobbiamo fare assoluta attenzione a che un focolaio identico non si sviluppi fra 2 settimane, fra un mese, in un'altra regione. Perché questo potrebbe accadere anche tra un mese. Assolutamente sì, perché abbiamo imparato che dall'arrivo del primo caso, un primo caso arriva in un posto X, arriva diciamo in Belgio, un primo caso, e questo caso non viene intercettato ci si accorge della circolazione del virus dopo 50 giorni, perché dopo 50 giorni che cominciano a spuntare come funghi i casi e quindi ci se ne accorge. E per questo bisogna cercare di intercettare al più presto tutti i casi che entrano in un territorio indenne. Certo, chiarissimo. Grazie professor Luigi Lopalco. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata e vi ricordo al 349-238-6666 se volete dire la vostra, commentare le notizie di oggi. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Noi ci risentiamo tra poco, cercheremo di allargare lo sguardo oltre alle notizie sul coronavirus, che pure vi aggiorneremo, e parleremo del futuro dell'ex Ilva dopo che è stato firmato ieri il nuovo preaccordo tra ArcelorMittal e i commissari di governo. Effetto giorno. Queste le notizie di oggi. Coronavirus, scuole chiuse, la ministra Bonetti apre ai voucher e babysitter. Intanto in Germania i casi salgono a 350, la California dichiara lo stato di emergenza. La crisi dei migranti al confine greco-turco, Ankara annuncia truppe speciali contro i respingimenti di profughi verso la Turchia. Piogge, vento e neve in arrivo sull'Italia, una perturbazione atlantica dal nord e in estensione verso il centro-sud. Ex Ilva, ieri firmato l'accordo tra ArcelorMittal e i commissari. Quale futuro per l'acciaieria di Taranto? Tra poco le ultime notizie con Jacopo Giliberto. Calcio, la FIGC conferma partite a porte chiuse fino al 3 aprile. Minuti, di nuovo buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori in diretta con Effetto Giorno. E, i vostri messaggi al 349-238-6666 o anche sulla pagina Facebook del programma. Molti che commentano, ringraziando anche per l'intervista con il professor Lopalco, che ha chiarito molti aspetti sulle misure prese dal governo, dallo sport, ai teatri, alla scuola, eccetera, eccetera. E anche per il messaggio tranquillizzante che ha dato a proposito di andarsene in giro tranquillamente per alberghi o insomma in mezzo alla gente, purché in luoghi non troppo affollati. Poi c'è anche chi inevitabilmente dice: continuate a difendere questo governo di incapaci, andremo tutti a picco, bla bla bla, eccetera eccetera. Guardate, non si tratta di difendere il governo o in particolare queste decisioni del governo, almeno dal mio punto di vista. Un conto è dire, e lo abbiamo fatto, c'è stata una giornata ieri abbastanza delirante, un'attesa lunghissima per queste decisioni. Ci sono avute 10 ore per capire se le scuole chiudevano oppure no. Un conto è dire questo, un conto poi è valutare le misure adottate e dire che sono misure giuste, e non lo faccio io ma lo fanno gli esperti, lo fa Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, l'ha fatto il professor Lopalco, e queste insomma sono le punti di vista da tenere in considerazione. Adesso invece è il momento di sentire il punto di vista del vice direttore del Sole, come sempre. Il punto di Alberto Orioli. Tra le tante lezioni che il coronavirus sta dando al mondo, ce n'è una che vale soprattutto per l'Europa. Il virus è un grande livellatore, per dirla alla Totò, e riguarda tutti senza confini, e a maggior ragione richiede risposte solidali e ragionevoli, ma anche visionarie e innovative. L'annuncio che il vecchio continente farà di tutto per difendere i suoi cittadini e la sua economia è arrivato in modo forse un po' troppo burocratico al termine dell'Ecofin. Tuttavia è importante che l'Unione Europea abbia già fatto sapere all'Italia, ad esempio, che potrà beneficiare degli scostamenti previsti dal patto di stabilità e crescita in caso di calamità naturali. Ma è comunque un non nulla rispetto alla risposta che bisognerà dare a un'economia soggetta a una glaciazione tanto repentina quanto pervasiva ed epocale. Per Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, vale a dire per la Commissione Europea e per la Banca Centrale Europea, è il momento di dare un segnale che l'Europa cambia davvero volto e risponde all'unisono. Serve un gigantesco piano di rilancio degli investimenti europei, un piano Marshall continentale per evitare l'impatto di una inevitabile recessione. Dalla tragedia ne verrebbe un bene. Il virus alla fine avrebbe ricordato a un'Europa un po' corta di memoria qual è la vera ambizione per cui è nata. E adesso, come anticipato, cerchiamo di gettare lo sguardo al di là delle notizie sul coronavirus e ci occupiamo di una crisi antica che però ritorna, e forse ieri c'è stata una buona notizia. Parliamo dell'ex Ilva e della firma di un accordo tra ArcelorMittal e i commissari pubblici. Ne parliamo con Jacopo Giliberto, collega del Sole 24 Ore. Ciao Jacopo. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovato. Tornato da poco da un viaggio a Taranto, nel quale hai cercato di capire, approfondire un po' questa realtà dell'acciaieria di Taranto. Intanto, quindi andando anche a cercare tra le carte dei processi che ci sono e tra i dati oggettivi, le evidenze, insomma, le speranze, le possibilità di questo importante polo produttivo, che però è al centro di moltissime polemiche, di una crisi ormai lunghissima. E intanto ti chiedo, quello di ieri, la firma di ieri è un preaccordo, no? Ma cosa cambia un po' così rispetto a quello che c'era prima? Ma sicuramente cerca di dare l'intesa di ieri tra l'ArcelorMittal e i commissari di governo, cerca di dare un quadro più sicuro. Ricordo che l'azienda che sta gestendo adesso lo stabilimento, l'acciaieria, intendeva mollare la partita, abbandonare la partita e dire: cari italiani, arrangiatevi da soli, noi non ci stiamo più. Ecco, in questo modo invece si cerca di delineare un percorso, tra cui anche il percorso dell'occupazione dei dipendenti. Sono più di 10.000 i dipendenti, di cui una parte già accomodati purtroppo in cassa integrazione, e quindi si cerca di dare una prospettiva. Jacopo Giliberto, per chi segue il Sole 24 Ore, tu da tempo vai dicendo che sull'Ilva c'è una distanza tra le realtà, tra le evidenze anche scientifiche, tra i dati e invece la percezione, il fatto che si è creata una spinta comunque a voler fermare questa acciaieria e non a volerla bonificare, a volerla salvare, a volerla far andare avanti, e che questo emergerebbe anche dalle carte processuali che tu hai analizzato. Di che processo intanto stiamo parlando? Il processo adesso in corso in corte d'assise a Taranto, presieduto dalla presidente della corte, che è Stefania Del Rico. Che cosa sta venendo fuori in udienza? Stanno venendo fuori tutta una serie di testimonianze, attenzione, testimonianze dell'accusa, testimonianze che dicono non è esattamente come ci è stato detto finora. Cioè per chi ama parlare in inglese, lo storytelling, la narrazione che abbiamo sentito finora, maledetta acciaieria che uccide migliaia, milioni, miliardi di persone, non è proprio così. E stanno venendo fuori delle altre responsabilità, che non intendo dire che l'Ilva è un toccasana, è innocua, l'Ilva fa bene alla salute, no, naturalmente. Però forse c'è qualcun altro che fa peggio e che ha avuto tanta comodità nel fatto che l'Ilva fosse indicata come colpevole di ogni male. Si possono fare anche degli esempi proprio dalle carte processuali. Ci sono chi sono gli altri possibili, diciamo, coimputati in qualche modo di questa situazione? Ma innanzitutto Taranto da metà anni 60 è diventato un polo industriale molto rilevante. Cioè abbiamo una grande raffineria, un grande cementificio, tutta una serie di aziende dell'indotto e ovviamente la grande acciaieria nata nel 64. Ma c'è da fine 800 c'è per esempio l'arsenale militare. L'arsenale militare della Marina è stato scoperto a metà del anni 2000, cioè tra il 2005 e il 2009. Sono stati versate quantità altissime di sostanze altamente cancerogene da parte delle aziende lavoranti all'interno dei cantieri navali della Marina. Parlo di policlorobifenili, parlo di diossine, parlo di furani, parlo di metalli pesanti rovesciate nel terreno e nel Mar Grande. Questa inchiesta, a un certo punto, nel 2009, è stata stoppata. Bloccata, cioè il procuratore è stato comodamente spostato dall'incarico, gli inquirenti, la squadra di inquirenti che stava indagando è stata dissipata, trasferimenti, spostamenti, tolti gli incarichi di colpo, e immediatamente tutta l'attenzione si è concentrata contro l'Ilva. Ecco, insomma, vedete, oggi sul Sole 24 Ore trovate un ampio articolo, un reportage proprio su tutte queste notizie complesse. Per chiudere, Jacopo Giliberto, insomma, c'è stata l'Ilva pubblica, l'Ilva deriva, il commissariamento del 2013, se ricordo bene, per fare alcune cose e poi offrire l'azienda a un compratore. Adesso c'è Arcelor, questo nuovo accordo, cosa prevedi per i prossimi mesi, per il futuro, un nuovo protagonismo dello Stato? Perché effettivamente in questo accordo c'è un ruolo che prima non c'era da parte dello Stato. E questo che accadrà secondo te? È molto possibile. Io vedo due partiti sostanzialmente, il partito statalista, quello che vuole rivedere, appunto, torniamo all'Italia Sider in qualche misura, non sarà facile, ma c'è questo partito, e poi il partito del chiudiamo tutto, via, basta, chiudere tutto, e sono partiti trasversali, non hanno un colore politico definito. Grazie Jacopo Giliberto, vi ricordo il reportage sul Sole 24 Ore oggi in edicola, 13:46 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco come sempre con Giulia Crivelli e i giornali internazionali, Effetto Mondo.